24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Nuovo lunedì nero per le borse continentali, in particolare per Milano, nell'attesa del vertice straordinario dei leader dell'Eurozona previsto per giovedì. La Gran Bretagna appare intanto isolata nel vecchio continente sulla proposta di creare un quartiere generale permanente della difesa europea, proposta bocciata da Londra. Lo scandalo intercettazioni britannico sbarca a Westminster dopo gli sviluppi clamorosi del weekend. E come sempre vi portiamo al Tour de France con la nostra pagina sportiva. È stata un'altra giornata nera per le borse in Europa, come dicevamo, borse che hanno bruciato ben 91 miliardi di capitalizzazione. I mercati hanno notevolmente alzato la pressione sul vecchio continente in attesa del vertice cruciale di giovedì che dovrebbe decidere le sorti del secondo piano di salvataggio greco. Doccia fredda per l'Italia, che si attendeva un'accoglienza quantomeno tiepida dopo la manovra varata a tempo record nel fine settimana. Nuova ondata di vendite sui titoli di Stato e sull'azionario, in particolare sui bancari, con lo spread sui rendimenti BTP Bund nuovamente vicino alla soglia record dei 340 punti base, poi calati a 329. Praticamente ininfluenti, stando ai mercati, i risultati pur positivi degli stress test sui nostri istituti di credito. Alla fine Milano ha bruciato 12 miliardi di capitalizzazione, perdendo FTSE MIB oltre il 3%. Sotto pressione anche la Spagna, con gli spread bonus Bund in ascesa e i bancari in calo. Vale in questo caso la pena ricordare che ben 5 istituti di credito spagnoli non hanno passato venerdì gli stress test. Male infine le altre piazze continentali, Francoforte e Londra meno 1,55%, Parigi meno 2,04%. E ora però ascoltiamo il punto specifico su Piazza Affari nel servizio. Lunedì nero per i mercati europei e soprattutto per Piazza Affari, con gli investitori scettici sulla manovra economica varata dal Parlamento. Il FTSE MIB ha accusato un tonfo del 3%. Da inizio anno la performance della piazza milanese è ugualmente peggiore rispetto alle altre borse europee, fatta eccezione di Atene, con il FTSE MIB che è arretrato dell'11,3%. Sono state travolte dalle vendite le azioni bancarie, nonostante gli istituti italiani abbiano tutti superato l'esame degli stress test. Intesa San Paolo e Unicredit sono scivolate di oltre il 6%. Sono inoltre crollate del 7,8% le Fonsai dopo che si è chiuso l'aumento di capitale. Parmalat ha accusato un tonfo del 7% portandosi a 2 euro. Dallo scorso 8 luglio, giorno in cui si è chiusa l'offerta di Lactalis, i titoli emiliani hanno perso oltre il 20%. Nel FTSE MIB si sono salvate dalle vendite solamente le Diasorin più 2,2% e Campari più 0,27%. Fiat ha lasciato sul parterre oltre il 4%, risentendo della minaccia dell'amministratore delegato Sergio Marchionne di bloccare gli investimenti su Fabbrica Italia. Tra i titoli fuori dal paniere principale hanno fatto un debutto con il botto le Bioera, volando del 35%. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. Il secondo lunedì nero delle piazze europee ha fatto suonare la campanella d'allarme in vista del summit dei leader dell'Eurozona, di cui accennavamo poco fa. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato che vi parteciperà, ma pretende risultati tangibili. Mercoledì funzionari dei ministeri dell'economia europei si riuniranno per cercare di sbloccare in extremis un secondo piano di aiuti per Atene. I leader europei devono agire per contenere i rischi, lo afferma il segretario americano al tesoro Timothy Geithner in un'intervista alla CNBC. Ora il Consiglio Affari Esteri, svoltosi ieri a Bruxelles. L'Unione è sempre più preoccupata per le violenze in Siria e chiede al regime di Damasco di fermare la repressione e avviare un dialogo con le opposizioni che porti a riforme sostanziali per rispondere alle legittime richieste del popolo siriano. Lo ha dichiarato l'alto rappresentante europeo Catherine Ashton. Intanto la Gran Bretagna ha bloccato la creazione di un quartiere generale permanente della difesa europea. Londra non è d'accordo, né ora né lo sarà in futuro, ha spiegato il ministro degli esteri William Hague parlando ai giornalisti. E il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica ha espresso disappunto per l'impossibilità di trovare una formula che consenta un accordo su questa questione tra i 27. È un peccato che non sia stato possibile avere delle conclusioni. La Ashton vuole continuare a lavorare su questa ipotesi per una maggiore presenza europea nella difesa, ma eravamo 26 contro 1, ha detto Mantica facendo riferimento all'opposizione britannica. Voltiamo ora pagina, passiamo allo scandalo intercettazioni in Gran Bretagna, decapitati i vertici di Scotland Yard, lo scandalo delle intercettazioni sbarca in Parlamento mentre il premier David Cameron rinuncia a una parte della sua missione africana per gestire la crisi. Mentre Cameron chiude anzitempo la missione africana e torna a Downing Street, tocca a Rupert Murdoch e al figlio James presentarsi domani ai deputati insieme a Rebecca Brooke, ex amministratore delegato delle operazioni inglesi del magnate nato 80 anni fa in Australia. Nelle stesse ore ci sarà invece l'audizione del capo di Scotland Yard Stevenson e del suo vice Yates, che hanno lasciato nel giro di 24 ore. I vertici della polizia sono stati travolti per i loro legami con Neil Wallis, ex vice direttore del News of the World, arrestato il 14 luglio scorso. Yard è anche sospettato di aver insabbiato nel 2009 la prima indagine avviata dalle autorità britanniche sulle intercettazioni illegali. Lo scandalo ora minaccia anche il premier David Cameron, che in Parlamento ci sarà invece mercoledì, dopo la frecciata lanciata ieri da Paul Stevenson, quando il poliziotto ha tracciato un parallelo tra il caso di Wallis, che lo riguarda, e quello di Andy Coulson, ex direttore di News of the World, ma soprattutto ex portavoce del premier. Una faccenda, insomma, sempre più complessa, che scuote i poteri mentre il Parlamento attende tutti i protagonisti. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore. Possiamo stare tranquilli, l'infezione da Escherichia coli è ormai sotto controllo. Lo ha affermato Paola Testoricoggi, direttore generale alla Direzione Salute della Commissione Europea. Sono stati rimossi tutti i semicontaminati, ha spiegato la Testoricoggi, e i pochi casi di infezione ancora presenti in Germania del Nord sono dovuti a una contaminazione che risale alle scorse settimane. Bruxelles ha criticato il ripristino dei controlli doganali in Danimarca e ha giudicato insufficienti le giustificazioni date finora dal governo di Copenaghen. In una nota emessa al termine di una missione di esperti dell'esecutivo comunitario, la commissaria agli affari interni Cecilia Malmström ha affermato che la visita non ha permesso di ottenere risposte adeguate ad alcune obiezioni sollevate da Bruxelles e che persistono preoccupazioni sulla compatibilità delle misure attuate per rafforzare i controlli alle frontiere interne con la libera circolazione prevista vista dal trattato europeo, in particolare dallo spazio Schengen. Chiudiamo con lo sport, come sempre in questi giorni, un'occhiata alla Tour de France. Dopo il giorno di riposo, la Grande Boucle riparte oggi verso il traguardo finale di Parigi. Tappa insidiosa con arrivo a Gap, poi ci sarà lo sconfinamento in Italia con le due tappe in Piemonte, nella zona di Pinerolo. Pronto a giocarsi il tutto per tutto, Ivan Basso, quinto in classifica e che sta raccontando in esclusiva a Radio 24 il suo personalissimo tour. Sentiamolo al microfono di Dario Ricci. Sicuramente le tappe di giovedì, venerdì e sabato sulla carta sono i tre giorni dove si deciderà questo tour, però per mia abitudine il tour lo affronto sempre giorno per giorno, quindi bisogna affrontare le giornate con la calma, la tranquillità, con l'aiuto dei miei compagni, superare tutte le difficoltà giorno per giorno e ci portiamo avanti. Ti aspetti un'accoglienza particolare da questo sconfinamento del tour in Italia? Ma sicuramente ci saranno tanti tifosi italiani e il fatto di così respirare il nostro tifo sulle nostre strade, poi quella zona è una zona dove ho tantissimi tifosi, tantissimi mi raggiungeranno anche da altre parti d'Italia, quindi il fatto di giocare in casa per quella giornata sarà uno stimolo ancora più grande. Quello che possiamo promettere, che posso promettere personalmente, quello da qui a Parigi un impegno, una determinazione, una voglia di ottenere il risultato migliore possibile. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura Europei insieme al Consiglio di Associazione e Stabilizzazione Europa-Albania. In Polonia prosegue il Consiglio informale dei Ministri degli Interni e della Giustizia. Eurostat renderà invece noto l'andamento delle costruzioni nel mese di maggio. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.